Questa casa non è un albergo. Buongiorno e benvenuti, siamo quasi lì, arriva il Natale, siamo alle porte, ma noi siamo qui per parlarne insieme a voi, perché Natale che viene, problemi in famiglia che nascono e che tornano. Insomma, abbiamo sfide educative anche il giorno di Natale. Ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le famiglie, una sventolata di problemi. A Natale quest'anno mio figlio ha deciso che non andrà alla messa, a Natale quest'anno mio figlio ha detto basta il pranzo di famiglia, ultimo dell'anno mia figlia vuole andare con gli amici in montagna per 4 giorni. Queste alcune delle lettere che abbiamo selezionato di genitori che si trovano proprio a gestire questi problemi che nascono ed esplodono e si complicano proprio in occasione delle vacanze di Natale. Ma iniziamo subito a tranquillizzarci, perché abbiamo subito chiesto man forte ad un grande esperto in linea con noi. Io sono davvero felice, è un po' il mio regalo di Natale. Don Mazzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, chissà come è indaffarato in questi giorni, lei ha fatto un fioretto a trovare il tempo. Perché indaffarato? Non so, perché a Natale mi vedo Don Mazzi, chissà tutte le anime nere verranno da lei per rimettersi un po' a posto, per una remise en forme, insomma veniamo anche... Io credo che Natale, anche se hai da fare, l'ambiente ti crea serenità. Avessi da fare perché c'è la fine del mondo, capisco, ma hai da fare perché c'è Natale. Bene. Credo che sia simpatico, un periodo Senta. Dove le cose sono belle, anche quelle problematiche. Senta Don Mazzi, allora noi abbiamo una lettera, gliela facciamo ascoltare e poi andiamo subito con il suo consiglio, almeno il suo parere, abbiamo bisogno di qualche indicazione. Abbiamo 3 figli, siamo credenti ma non bigotti e comunque abbiamo sempre cercato di insegnare loro i valori e di educarli a cogliere il lato più immanente e spirituale della vita. Per questo, quando nostra figlia ci ha annunciato che lei non ha più intenzione di andare a messa e ha deciso di cominciare questa sua diserzione proprio a partire dalla messa di Natale, io e mio marito siamo rimasti a bocca aperta. Ve lo confesso. Provo una grande tristezza. Mi sembra che dentro questa scelta di mia figlia ci sia la decisione di affrontare la vita con una valigia che è stata svuotata di tutto il buono che noi avevamo messo dentro per il suo viaggio verso l'età adulta. E la cosa che mi sembra più grave è che tutto questo sia stato rivendicato ed annunciato proprio in occasione del Natale. Insomma, che fare? La trascino in chiesa con la forza? Allora, Don Mazzi, qua c'è bisogno di lei. Questa famiglia molto preoccupata, la ragazza dice non vado neanche alla messa di Natale e questo è un segno chiaro ed evidente delle mie intenzioni. Don Mazzi, lei che cosa farebbe, che cosa direbbe, come si può affrontare questo problema? Questi problemi non si affrontano da agitati. Tutti i genitori e tutti quelli che mi ascoltano devono sapere che l'adolescenza è un periodo molto particolare. È la vera nascita del nostro figlio e di solito l'adolescente è iconoclasta, quindi di solito dice di no quando ha le cose che il bambino apprezzava, e è chiaro che tra le cose che il bambino apprezzava e che sulle quali dice è facile che dica anche di no è certamente il rapporto con Dio, non soltanto la messa, è il rapporto con Dio, perché l'adolescente passa da un rapporto, da rapporti formali, da rapporti diciamo che sono un po' dettati dalle regole, dalle abitudini, dalle tradizioni, a rapporti invece molto più, l'adolescente più carnale, l'adolescente vuole sentire le cose, l'adolescente, hai capito, anche il rapporto con Dio la vuole diverso, diverso. Quindi è chiaro che poi quando accetta, quando sta cosa te la dice il giorno di Natale, è chiaro che un po' ti rompe. Però io non drammatizzerei. E non vorrei neanche pensare che questa ragazza, siccome non vuole andare alla messa, oppure dice che non vuole andare alla messa, da lì in poi sia peggio di Giuda o peggio di un pubblico peccatore. È certamente l'atteggiamento degli adolescenti di oggi, per i quali i genitori non devono né drammatizzare né banalizzare, ma devono affrontare il problema in altro modo. Può darsi che la figlia non vada alla messa, può darsi magari che se i genitori non rompono del tutto la messa alla fine ci vada e sì. sia una prima rottura così, sai. Ti ricordi nel Vangelo c'è una bellissima paraboletta che dice che il padre aveva due figli, aveva un figlio grande e un figlio piccolo. Il figlio grande disse, il papà dice, per favore vai nel campo a sistemare il frumento. Il figlio grande dice sì papà, e non andò. Aveva un figlio più piccolo e dice, tu per favore vai nel campo a lavorare. Il figlio piccolo dice no e andò. Quindi non bisogna formalizzarsi, l'adolescente è come un puledro, reagisce. Quindi prima cosa. La seconda cosa, ricordatevi e ricordiamoci che il rapporto con Dio è un rapporto molto importante e gli adolescenti lo sentono in una maniera profondamente diversa. Quindi bisogna che prepariamo i nostri figli ad un rapporto con Dio meno formale e più vero, più autentico, più genuino, meno fatto di formule e più fatto di contenuti. Va bene, quindi se per caso una notte di Natale vostra figlia non va alla messa, magari ditegli che vada a trovare un povero, che può certo. darsi che ci vada, e se va a trovare un povero la notte di Natale vale come una messa, Don Mazzi. Vale di più di una messa, va bene? Vale di più di una messa. Mi spiego? No, è stato molto chiaro, e devo dire che come mamma di adolescenti che vedo che insomma che sono abbastanza orientate, si danno da fare con poveri piuttosto che fanno delle iniziative anche con dei loro amici, e questo spero, che io mi fido di quello che dice lei, che questo valga come messa. La carità è il Vangelo e la carità copre tutti i nostri peccati. Laddove c'è un rapporto solidale con il prossimo, va bene, certamente c'è lì. C'è il Vangelo, è Vangelo, c'è un rapporto con Dio. Poi può darsi che tornino anche alla messa, ma non prendiamola faccia a faccia, petto a petto, capito? Sì. Perché se no l'adolescente, come ti dico, è un puledro, ti scappa. Certo. Quindi non drammatizziamo, mi dispiace anche, sarebbe anche brutto che andassero alla messa solo per fare un piacere a papà e mamma. Anche quello non va bene. Quindi li lasciamo a casa. C'è qualche mamma e papà? Più che lasciarlo a casa, va bene. Non drammatizziamo. Poi magari te lo trovi in chiesa, magari dietro di te. È capitato qualche volta. Una mamma e un papà che dicono: puoi stare a casa dalla messa quando vuoi, ma non la messa di Natale. Questo fallo, però, proprio per noi, perché è importante per la nostra famiglia. Si può dire o no una frase del genere? Si può dire, ci dispiace che stai a casa, soprattutto la notte di Natale, poi però sai, io non la metterei giù così, il ricattino, capito? Io la metterei così da padre e madre, tu sai, quando ci teniamo un rapporto con Dio, ci dispiace, punto. Va bene? Ecco. Io non lo metterei sul ricatto. Don Mazzi, quanto mi piace, grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie. Buon Natale a tutti. Grazie. Chi non va messa. Anche a chi non va messa. Va bene, ciao. Alberto, quindi, vedi, anche senza andare a messa, però l'importante è che i ragazzi scoprano la carità, il valore della carità. Siamo tornati, Alberto. Adesso ci tocca affrontare un altro temone, un altro problema. Allora, genitori, mettetevi tranquilli in vicino al vostro tavolo, carta e penna. Secondo me uno su 10. Non è necessario però scrivere, perché ci ricordiamo anche qualcosa. Ma dobbiamo prendere appunti, abbiamo un'esperta a 5 stelle e secondo me un genitore su 10 ha a che fare con questa sfida educativa. E ci aiuterà la dottoressa Emanuele Attrinci, che è psicoterapeuta dell'età evolutiva, è in linea con noi. Auguri, buongiorno, buon Natale in anticipo, dottoressa Trinci, è pronta per aiutarci? Buongiorno a tutti e sono contenta di avervi ritrovato, pronta per la consultazione. Allora, dottoressa Trinci, il papà che ci ha scritto è un papà, non si può dire arrabbiato, la mia maestra delle elementari non voleva mai quando dicevamo arrabbiato, inquietato con il suo figlio adolescente, questi ragazzini fanno veramente così scappare la pazienza. Noi le facciamo ascoltare la lettera che ci ha mandato e poi la commentiamo. Sono cresciuto considerando la famiglia un grande valore. Perciò sono rimasto senza parole quando mio figlio mi ha annunciato che quest'anno al pranzo di Natale con nonni e una zia lui non si presenterà perché andrà a quello della famiglia della sua ragazza. Ora, mio figlio ha 15 anni e la storia con la sua ragazza dura da soli 5 mesi. Mi sembra che la situazione sia paradossale e se non fosse successa a me la considererei comica. I nonni materni fanno un viaggio di 300 chilometri per il pranzo di Natale. Ho il diritto di vietare a mio figlio di andare a pranzo dalla sua fidanzata. E se voi foste al mio posto, chiamereste i genitori della suddetta signorina per dire loro che con questo invito forse hanno esagerato? Dottoressa Trinci, insomma, un papà direi che usa toni un po' forti, addirittura chiamare, poi la chiama signorina, suddetta signorina, insomma è molto offeso, direi è che... È irritato. Irritato. Mi sembra che la stia facendo un po' grande, o no? Ma sì, indubbiamente credo che questo sia un problema che curiosamente mi riporta un po' in ambulatorio, perché proprio sono temi che comunemente ci sono, anche perché i ragazzini di oggi hanno una forte precocizzazione, direi proprio in senso generale, quasi tutti. Quindi a 16 anni, 14 addirittura, cominciano già a avere cosiddetti fidanzati, festeggiano i mesi in cui stanno insieme. 5 mesi, se a noi sembrano pochissimi. A loro sembrano molti. Allora sembrano molti, anche perché sono abituati a rapporti molto più usa e getta, no? Quindi io credo che comunque un genitore abbia veramente il diritto di proibire in qualche maniera, oppure decisamente non far andare un figlio, per esempio, a un pranzo di Natale in una famiglia che non sia la propria, ecco, perché mi sembra davvero che questo comporti anche un grosso coinvolgimento. Forse è anche giusto che i ragazzi abbiano un'idea di come possono andare le cose, no? In una maniera anche diversa da quella che loro immaginano, perché un tema grosso da affrontare con i ragazzi di oggi è proprio questa: la vita, la realtà è quella che voi vi immaginate, questo senza togliere lo spazio che per me è importantissimo dell'illusione, no? Però per aiutarli ad affrontare proprio l'esistenza con tutti i problemi che un'esistenza comporta. Quindi a 15 anni lei direbbe no, dottoressa Trinci? Sarei molto, cioè cercherei veramente di capire, ecco, anche qual è il motivo per cui decide di non stare al pranzo di Natale, no? Quindi io sono anche per affrontare il conflitto, quindi io credo che se un genitore è veramente convinto che per lui, per l'educazione, per il tipo di vita che ha deciso di impostare con i propri figli, il pranzo di Natale è un momento importante, io penso che con un ragazzino, perché diciamo quello che è un ragazzino di 15 anni, un genitore possa decisamente dire no. Tu rimani a pranzo con noi. Allora, dottoressa Trinci è per la linea, non dico dura, ma abbastanza. Cosa dice il nostro Alberto? Ma il nostro Alberto intanto pensa che effettivamente ci sono proprio due menti a confronto, e un po' le ha già raccontate bene la dottoressa Trinci, cioè un papà che dentro al pranzo di Natale vede un mondo di significati, un mondo di relazioni familiari che in qualche modo devono essere presidiate, curate e custodite, e dall'altra parte c'è invece un ragazzino che vive proprio nel qui ed ora, e che probabilmente fra 2 anni questo pranzo di Natale se lo sarà già dimenticato, come avrà dimenticato la ragazza e ne avrà un'altra. Magari no, hai ragione. Scusa, però... ma perché tutte le volte che dei ragazzini hanno una ragazzina, una fidanzatina, Alberto mi dice oggettivamente subito, io credo che si sarà dimenticato. Magari ci sono delle storie che durano tutta la vita, lasciami essere romantico. Può essere, però diciamo che nella mente di questo ragazzo tutto il mondo dei significati e dei valori del figlio in questo momento non sono in gioco, cioè lui ha in gioco esclusivamente la vicinanza alla sua ragazza. Però io sai cosa farei? Farei un intervento quasi paradossale e direi: guarda, io ti propongo questo, è molto importante che il giorno di Natale tu stia vicino alla tua ragazza, e se vuoi stare vicino al momento del pranzo ribaltiamo la situazione, la nostra casa si apre, noi accogliamo la tua ragazza, e con questo intervento improvvisamente il figlio vedrà che lo stesso conflitto che sta giocando lui con suo papà ritorna nella relazione tra la ragazza e i suoi genitori. Cioè in quel momento effettivamente tutti i genitori probabilmente stanno cercando di preservare intorno al tavolo del Natale il momento della famiglia, e quindi offrendo la porta aperta all'arrivo della ragazza probabilmente si troverà lui a casa sua, la fidanzata a casa sua, e potranno fare un passaggio in più. Facciamo che alle 4, finito il pranzo, o prima ancora che finisca il pranzo, voi vi incontrate dove volete. Quindi, dottoressa Trinci, praticamente Alberto con un'abile mossa ha scaricato il problema nell'altra casa. una mossa davvero padre. Vero. Io da mamma avrei detto, senti, proprio da, insomma, il rispetto anche alle mie origini meridionali, avrei aperto tutta la casa, ci stringiamo un po', stiamo tutti qua, fidanzatina, parenti, cugini, eccetera, tanto un pranzo non è poi così vincolante e tutti vivono felici e contenti. A 15 anni mi diventi suocera, Nicoletta, però con una mossa del genere. Dottoressa Trinci, abbiamo un po' scherzato, ma in effetti di fronte a dei ragazzi che dimostrano proprio questa presa di posizione, che ci toccano un po' da vicino, nel cuore, mettono in discussione quelle che sono per noi dei punti fermi delle tradizioni. Il nostro papà dice i nonni fanno addirittura 300 chilometri per il pranzo di Natale, è difficile, forse c'è anche da interrogarci se e come avviene questo pranzo di Natale, se ogni anno per 15 anni il ragazzino si sorbisce i nonni e gli zii, magari è figlio unico e quindi in un contesto solo per adulti, anche quello sarebbe da chiedersi. Ma dottoressa Trinci, via il conflitto allora. Sì, però vede, io sì, però è già un non buon incipite, nel senso che questo può essere verissimo, che il ragazzino si annoia, però quante volte i genitori si annoiano a portarlo in palestra oppure andare a parlare con i professori? Quindi credo che sia molto importante che un ragazzo cominci veramente a capire anche un po' che non tutto è dovuto. Certo. Ecco, allora se questo pranzo di Natale, in fondo questi poveri nonni, chissà da dove vengono, comunque sia, fanno 300 chilometri per stare insieme, no? Sì. Allora, per quale motivo? Cioè, voglio dire, benissimo, io trovo la posizione del dottor Pellai condivisibile, la giocherei anch'io una carta del genere, addirittura mi era venuto in mente sentendo la lettera, ma diciamoli tutti a casa, alla casa del ragazzino dove ci sono i nonni che vengono da 300 chilometri di distanza, no? Quindi una famigliona. Come avevo detto, lei viene nel mio. Credo che, scusi, per finire proprio, che sia importante che ci sia da parte dei ragazzi un andare anche incontro, cioè non è che solo noi adulti dobbiamo comprendere la mente dei ragazzi e quindi dobbiamo fare tutti quei processi difficilissimi sui quali noi psicologi passiamo delle ore a discutere con i genitori, quindi capire che i ragazzi cominciano ad aver bisogno delle loro spazi d'autonomia, che questo rifiuto del pranzo di Natale può davvero significare io sono grande, io ho la ragazza, io ho la mia autonomia, può avere davvero molteplici e sfaccettatissimi significati, però credo che per un'occasione del genere davvero il padre, la madre, la famiglia che si mette in gioco su un pranzo che è la loro tradizione, il loro modo di concepire l'educazione, di concepire dei valori, perché no? Why not? No? Voglio dire, perché no? Allora, io ho cercato di suggerire una strada morbida, tutti insieme appassionatamente. Mi sembra che i nostri due esperti invece concordino, a parte questo gioco barbino di Alberto Pellai di scaricare il problema nella famiglia di questa povera ragazza che viene chiamata addirittura signorina dal futuro, ma non sappiamo, suocero. Allora, al ragazzo si dice no. Tu stai a pranzo con noi. Io sono totalmente d'accordo con la dottoressa Trinci e aggiungerei proprio questo dato da non sottovalutare, cioè c'è un viaggio così lungo e così importante dei nonni che si riuniscono con la famiglia in occasione di questo pranzo, e questo è un valore che deve essere comunque costruito nella solidarietà dei legami familiari. Dottoressa, 30 secondi per rispondere a questa domanda. Lei sa che gli adolescenti sanno fare dei musi, dei bronzi che partirebbero, ecco, se il ragazzino si ferma ma col muso alla fine del pranzo si fa finta di niente o alla fine del pranzo gli si tirano le orecchie? Guardi, è una domanda difficilissima in 30 secondi. Beh, io confesso, gli tirerei le orecchie. Sì. E Alberto Pellai? Io gli direi in realtà a metà pranzo che a questo punto non vedrà la sua ragazza, visto che è così arrabbiato. No, ma guarda, dai, ma non mi piace il questa concetto, cosa qua. Stiamo parlando di il pranzo a tutti, di un ragazzino di 15 anni che non è un bambino di 3, cioè stiamo parlando di qualcuno che fa i capricci come un bambino di 3 anni. No, Nicoletta. Quindi no, come se li avessi fatti io i capricci che vorrei tanto avere 15 anni. Comunque, dottoressa Trinci, allora abbiamo capito qualche indicazione l'abbiamo presa, puntata, come insegna Alberto. E adesso abbiamo un nuovo caso per lei, rimanga con noi. Allora adesso facciamo una pausa, andiamo insieme a sentire il nostro GR, poi torniamo di nuovo qui. Vi voglio però un pochino più morbidi, dottoressa Trinci, anche lei. Siamo quasi vicino a Natale. GR, ma poi ci sentiamo. Gli dobbiamo pur dare delle regole. Va bene, regole, ma con un, non lo so, come si dice, guanto di velluto. Siamo tornati, devo dire io un po' affaticata perché mi trovo questi due macigni così duri, non sto scherzando, giustamente io condivido con la dottoressa Trinci la necessità di dare delle regole ai nostri ragazzi e credo, ne abbiamo parlato diverse volte anche con Alberto, che anche loro, se non espressamente, ce lo chiedano. Devo dire che nella nostra trasmissione i conduttori sono un uomo e una donna, ruolo paterno, ruolo materno, tu giustamente fai la mamma, credo che a me tocchi il compito di fare il papà. Non ho capito questa cosa qua. Il papà un po' normativo, la mamma più affettiva. Ma dottoressa Trinci, siamo ancora a questi schemi? Può darsi, io faccio volentieri la zia, perché è libera da conflitti. Ma a metà e metà. Essere anche più simpatica ai ragazzini. Allora, abbiamo un altro caso, insomma, di ragazzini che stanno tranquilli nelle vacanze di Natale, non ce ne sono. Forse gli unici sono i figli di Alberto Pellai che sono piccoli, o almeno... Non abbiamo ancora questi problemi, di sicuro. Adesso però telefoneremo anche a loro per capire, faremo un mini sondaggio a casa Pellai e verranno fuori un po' le loro richieste. Comunque... abbiamo un'altra lettera di una ragazzina che insomma vuole un po' di vacanza. Sentiamo. Mia figlia frequenta la prima superiore e ha 14 anni. Quest'anno ha chiesto di poter andare in montagna con un gruppo di 7 amici. Uno di loro ha una casa di famiglia e i genitori di questo ragazzo si sono dichiarati disponibili a lasciarla per loro nei giorni a cavallo dell'ultimo dell'anno. Siamo molto perplessi. Non sappiamo se concedere o meno questo permesso. Sarebbe la prima volta che mia figlia trascorre più giorni senza un adulto che fa da supervisore. Non sono troppo pochi 14 anni per vivere un'esperienza di questo tipo. Lei di fronte ai nostri dubbi dice che siamo antichi e che se non la lasciamo andare sarà tagliata fuori dal gruppo dei suoi amici. Noi, come genitori, ci sentiamo in trappola. Voi, come esperti, cosa dite? E allora io do la parola ai miei esperti. Alberto, 14 anni, vedo già la faccia, è preoccupato. Ma sto facendo andare la testa perché non voglio assolutamente fare la figura di quello che poi è troppo rigoroso, troppo rigido. Certo che stavo riflettendo su questo, cioè se a 14 anni... 5 giorni in vacanza da solo con un gruppo di amici. Continuo, cosa faranno mai a 18? Cosa chiederà a 18 anni? Perché poi è un po' questo. È come il concetto di entry point, no? Di cui ogni tanto parlano gli psicologi. Tu anticipi sempre. Questa è davvero un'autonomia che una ragazzina di 14 anni si è conquistata, si merita, in qualche modo è un suo diritto, perché la crescita l'ha portata in un territorio dove può gestire in totale tranquillità un'esperienza di questo tipo. Oppure no, è una richiesta davvero troppo avanti. Dottoressa Trinci, Alberto è stato chiaro. Sì, anch'io direi che condivido questa la posizione di Pellai e soprattutto sono d'accordissimo su questa cosa di un entry point sempre più anticipato. Ora, a noi mancano dei dati in questo caso, cioè sapere per esempio se questi ragazzini con cui dovrebbe andare in vacanza per entrare in merito proprio alla questione sono dei ragazzini che la famiglia per esempio conosce bene, se i genitori del ragazzino per esempio sono amici di famiglia dei genitori, perché queste cambiano, variabili queste, cambiano certo. Un pochino la posizione. Ecco, io per esempio ripeto che mi sembra di essere ancora in ambulatorio perché ho una situazione analoga e per esempio i genitori di questa ragazzina sono andati a vedere dove dovrebbe andare la ragazzina, anche lì è una unica femmina con tanti maschi e ci sono molte molte perplessità. Ecco, io penso che se i ragazzini non mi farei ricattare dal discorso del il gruppo poi non mi gruppo, vuole più no. Questo mi sembra veramente che sia un errore da parte dei genitori, che devono valutare molto bene, perché certo, come diceva giustamente Pellai, è un'autonomia conquistata o è una sorta di diritto acquisito perché pensa ad averne diritto, punto. Allora potrebbero trovare anche una situazione un po' transitoria che potrebbe essere quella di accompagnarla per l'ultimo dell'anno lì lasciarla alla festa, quello che potrebbe essere, invece di farcela stare un periodo più lungo, limitare il discorso al 31 e al primo, ecco, che è già una mediazione, no? Rispetto a un periodo lungo dove, insomma, appunto, ce l'ha questa autonomia oppure no? Questo è un venirsi incontro, mi sembra che possa essere una buona soluzione. Abbiamo visto allora che nella decisione giocano tante variabili, come ha sottolineato la dottoressa Trinci. Sicuramente, se i ragazzini sono compagni da quando erano piccoli, se si conoscono le famiglie, se i genitori, insomma, sono amici, conta l'età. 14 anni ci sembrano davvero poco, conta anche la maturità dei ragazzini. Insomma, non è detto che un ragazzo a 17 anni poi sia maturo per andare poi a trascorrere qualche giorno fuori con i figli, e lì però non abbiamo più la scusa dell'età. Alberto, un genitore quando capisce che è il momento di fidarsi e che quindi deve mettere da parte un po' le paure, le ansie che tutti i genitori hanno, e riconoscere che il proprio figlio è pronto, nonostante non abbia 18 anni, per fare un'esperienza con i compagni? Ma lo deve riconoscere proprio all'interno di un percorso, ed ecco perché la mediazione proposta dalla dottoressa Trinci. E lasciami dire tra parentesi che se tu mi avessi chiesto cosa io avrei consigliato a quella mamma, era esattamente dottoressa Trinci, adesso cosa. È troppo facile dire, lo dicevo anch'io, doveva dirlo prima. Beh, non me l'hai chiesto, però ti assicuro che avrei detto la stessa cosa. È questo, quando abbiamo una richiesta che è davvero così avanti rispetto a quella che è la norma e l'abitudine per un figlio, il concetto fondamentale è la negoziazione, è in qualche modo mettersi intorno a un tavolo delle trattative, e i figli di solito spesso ti obbligano a scegliere tra il tutto e il niente: o mi fai fare quella cosa altrimenti io sarò esclusa per sempre dal gruppo, oppure niente, tu non mi fai mai fare niente. Ecco, tra il tutto e il niente ci sono vie di mezzo, dove c'è la sapienza educativa del genitore, dove c'è l'accompagnare il figlio a conquistarsi spazi progressivi di autonomia e di libertà, e dove c'è anche la messa alla prova del figlio, cioè in due giorni hai la possibilità di vedere come vanno le cose, hai la possibilità di vedere come quel gruppo al quale tuo figlio appartiene si muove intorno a lui, e per il prossimo anno possiamo magari rilanciare un giorno in più, quindi potrei partire il 31 e tornare il 2 e via dicendo. Direi che in questo senso si dà l'idea di un percorso, si negoziano i permessi e in qualche modo si costruisce una competenza che poi aiuta il figlio a gestire bene la propria autonomia. Dottoressa Trinci? No, condivido pienamente, anche perché io penso che un ragazzo abbia proprio bisogno anche di potersela guadagnare un'esperienza. Ecco, questa mediazione, questa negoziazione che il genitore propone lo rende anche più partecipe, no? Che non l'avere immediatamente la cosa che richiede. È un po' anche mettere dentro a quelle che poi è la complessità di una relazione il tempo dell'attesa. Che, sì, che c'è anche un tempo per crescere. 14 anni sono veramente pochi. Ecco, non mi farei prendere dalla mania della precocizzazione. Non darei per scontato che a 14 anni ragazzi possano avere rapporti anche sessuali per il gusto di sperimentare. Questo dico senza entrare in merito, non è esplicitato in questa lettera, però dico, a proposito dell'entry point che i ginecologi, i rapporti dei pediatri, dei ginecologi lanciano questi segnali continuamente, allora forse è anche giusto che dei genitori, io credo, che portino avanti le loro convinzioni sull'amore, sugli affetti, sulle amicizie. Ecco, io credo, dottoressa Trinci, che sia un lavoro che vada fatto già dai primi anni. Ne abbiamo, Alberto, ad esempio, si vedono delle bambine di 5-6 anni che si atteggiano, e di questo abbiamo parlato, già a ragazzine, per cui iniziando a essere ragazzine nelle elementari, a mettersi con la ad atteggiarsi quasi a delle veline, è logico che arrivano a 13 e devono essere qualche cosa di diverso, quindi anche da parte dei genitori ci deve essere questa educazione a far sì che il ragazzino, che il bambino viva la sua età, il suo tempo, senza farsi così in qualche modo trascinare dai modelli che gli ruotano intorno. Sì, direi che il diventare grande non è un pacchetto che tu trovi fatto e costruito e che dai con dei vestiti o dai con una libertà indiscriminata ad un figlio che sta crescendo. Penso che la libertà per un figlio sia una conquista. Conquistare la libertà significa venire a patti con i genitori e pian piano sostituirsi al loro potere decisionale. La cosa peggiore che una mamma o un papà può fare per un figlio è regalargli tutta la libertà in un pacco dono, come dire, tieni, è tua, fanne quello che vuoi, perché questo davvero mette i figli in serio pericolo. Dottoressa Trinci. E poi ho un po' l'impressione che quando succede che vengano fatti da parte dei genitori questi pacchi regalo, sia anche un modo per non dire no e arrivare a una compromissione verso il ni. Certo. Cioè, è qualcosa che è anche meno faticoso, perché il percorso che indicava Alberto Pellai è sicuramente un lavoro, un grande impegno anche per i genitori. Sì, perché non sempre. Se si pensa alla lettera di prima, no? Reggere il muso lungo che il ragazzino di prima o la ragazzina faranno sicuramente di fronte, in questo caso a non poter andare, non fare le vacanze come voleva, eccetera, eccetera, è faticoso, è un clima familiare che implica reggere una scontenta, e non c'è cosa peggiore degli scontenti. E certo, lo sappiamo bene. Lo sappiamo tutti. Io ritengo che rientri però in un compito educativo di un genitore di oggi. Allora, cari genitori all'ascolto, tenete duro, mettetevi al lavoro, i consigli i nostri esperti ve l'hanno dato e voi fateci sapere com'è andata. Potete sempre scrivere a esserebenessere@radio24.it. Intanto un saluto alla dottoressa Trinci. Un saluto a tutti voi e davvero buone feste. Grazie, grazie anche a lei e ad Alberto un saluto, ma noi ci incontreremo spesso in questi giorni, quindi un mezzo saluto e invece un saluto caldo, affettuoso da parte nostra a tutti i nostri ascoltatori. Rinnovo gli auguri e rimanete con noi. Grazie, buona giornata.